Cialtroni nello spazio, dodicesima puntata, edizione 2005-2006. Bentornati. Bentornati, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, un saluto anche a Alessandro e a Marco. Ciao a tutti. Cialtroni nello spazio, la trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto, dove si parla di informatica, di diritti della privacy, di software libero, di condivisione, di internet, di nuove tecnologie. Ecco, ha studiato! La prossima volta si avvicina di più al microfono, lo dice più lentamente e lo capiremo tutti. Era l'emozione. E allora andiamo a vedere quali sono gli argomenti di oggi, Alessandro. Allora, oggi andiamo a parlare, sono un po' di notizie riguardo, allora, una notizia di servizio è stata approvata dal garante delle telecomunicazioni, una direttiva sulle bollette telefoniche, eccetera. Una cosa che riguarda il Papa e il copyright, una notizia eclatante dall'Inghilterra sulla raccolta di DNA e un'altra serie di notizie. Comunque, vabbè, non facciamo tutto l'elenco. Parleremo di un paio di progetti legati alla pubblicazione di materiale in licenza libera o non coperto da copyright, uno che riguarda l'editoria, l'altro che riguarda la musica, sempre made in Francia. E poi cercheremo di fare, prendendo spunto da un articolo di PC World online, una comparazione tra i client BitTorrent, ovvero quei programmi che servono a connettersi alla rete peer-to-peer di BitTorrent. E a farci compagnia ci sono sempre i Chemical Brothers Remixed. Almeno mentre parliamo, mentre ci accogliamo noi. E allora partiamo dunque con questa notizia che arriva dall'Authority delle telecomunicazioni. Chi ne parla? allora sì, dai, ne posso parlare io. Non ti vedo preparato, lo facciamo fare Alessandro. Allora, l'Authority per le telecomunicazioni ha annunciato un provvedimento che bloccherà la bolletta telefonica per 2 anni, ovvero il canone per i servizi di telefonia sarà fisso e Telecom Italia non potrà alzarlo. E vabbè, questa ovviamente è una buona. Infatti il trend negli ultimi anni di Telecom Italia era, visto che oramai molta più gente poteva smettere di utilizzare i suoi servizi di Telecom Italia per quanto riguarda la fonia, quindi aveva una diminuzione dei soldi che riceveva dalle telefonate, allora continuava a aumentare in proporzione i soldi della linea e della connessione fissa di telefonica, e quindi a questo punto l'Authority ha deciso di bloccare questi aumenti. Dall'anno scorso appunto è l'Authority a stabilire quant'è il minimo per quanto riguarda il canone di utilizzo del servizio telefonico, che è 12,50 euro, e quindi l'Authority ha deciso che per 2 anni resterà ancora quello di adesso. Altra cosa interessante dello stesso decreto è, anzi forse più interessante ancora, e l'accorpamento delle bollette telefoniche, ovvero il gestore della linea, cioè chi ci offre la linea, quello a cui noi paghiamo il canone, quindi in moltissimi casi è Telecom, sarà tenuto anche a fatturare il traffico del telefonico delle altre compagnie. Quindi se avremo traffico con altre compagnie, con Tele2, Wind, quello che è, verrà tutto riportato in bolletta Telecom e poi sarà poi Telecom a gestirsi la distribuzione. Comunque questo permette di avere anche un gran numero di operatori sulla stessa linea senza dover prima di tutto pagare l'accredito in banca piuttosto che la bolletta telefonica, e poi anche per avere un solo riferimento per quanto riguarda la fatturazione. In questi giorni è andato alle ribalta anche il Papa per delle dichiarazioni, delle modifiche sulle leggi del copyright, finita un po' sui giornali, un po' nei telegiornali televisivi, perché se ci sono delle modifiche sul diritti d'autore anche per il Sommo Pontefice della Chiesa Cattolica. Qualunque testo che adesso avrà per autore il Papa o un dicastero della Santa Sede sarà protetto da copyright e potrà essere pubblicato solo su concessione della libreria editrice Vaticana. Questo è stato un decreto firmato proprio dal segretario di Stato Vaticano, il cardinale Sodano, un decreto retroattivo fino a 50 anni, quindi insomma tutto quello che va applicato sia al pontefice, che tra l'altro il documento dice felicemente regnante, sia ai suoi predecessori fino a 50 anni addietro. Quindi ci sarà una sorta di accordo per i costi, protestano ovviamente le varie case cattoliche, che sono tantissime in Italia. Le più famose sono San Paolo, la LDC, il Messaggero, le Deoniane, le Paoline, l'Ancora, la Querignana, la Giacabuc, eccetera, però sono in tutto 48 gli editori che fanno parte dell'Unione Editori e Librai Cattolici Italiani, e sono 105 le librerie. Una cosa molto particolare è che ci sarà appunto questo copyright anche sulle encicliche e su i discorsi, quindi non solo gli scritti ma anche le parole del Papa, compresi gli Angelus, la Catechesi del mercoledì e le allocuzioni varie. Il diritto d'autore varrà anche per i testi pubblicati da cardinale e per i documenti di consigli e delle congregazioni vaticane. Indiscrezioni parlano di una inquisizione, si viene da pensare così, comunque una denuncia nei confronti di una casa editrice di Milano che in un'antologia ragionata sul Papa aveva usato una trentina di righe di un discorso del Papa, e sono stati chiesti 15.000 euro di danni, ovvero il 15% di compenso su ogni copia venduta. Qua ci si chiede come faranno i giornalisti a continuare a pubblicare i testi del Papa per intero. La risposta del Vaticano è che dovranno chiedere l'autorizzazione e comunque citare la fonte. Per chi non lo facesse o pubblicasse un documento del Papa in anticipo, si potrebbero arrivare ad azioni legali di rivalsa, quindi insomma una modifica che è anche segno dei tempi per un'istituzione millenaria e repressiva come la Chiesa. Ma questa cosa c'è anche sulle immagini televisive? Sarà curioso vedere se un giorno decideranno. No, riguarda solo l'editoria. Ah, esatto, il televisore è troppo importante per rischiare di perderlo. In realtà questo passaggio non è estremamente eclatante, nel senso che il Vaticano semplicemente ha aderito al Trattato di Ginevra mettendo come riferimento il Papa come autore delle encicliche. Questo vuol dire che in quanto autore ha diritto d'autore su quello che produce. È ovvio che l'assurdità del procedimento per una cosa che dovrebbe servire ai, tra virgolette, fedeli. Sì, ma loro dicono che hanno paura dei pirati che potrebbero modificare o cose del genere. Infatti fa tornare un po' in mente quello che era successo con il sito vatican.va, che era stato... Quello che c'è sempre stato riguardo al software. La difesa del diritto d'autore contro la pirateria è servita negli anni sempre contro la modifica di non autorizzati, serviva poi a coprire, e comunque serve anche a far cassetto, che non è niente. Sicuramente per una delle persone più riportate e citate del mondo, questo sicuramente. Andiamo a parlare di un'altra notizia. Allora, è uscita recentemente la bozza della terza edizione della GPL, che è la licenza con cui vengono rilasciati la stragrande maggioranza dei software open source, software liberi, anche quella storica, ne abbiamo parlato l'anno scorso, è diciamo la pietra miliare del software open. È in revisione appunto la licenza, che era già la seconda versione, quindi non è più neanche quella originale, e l'introduzione di una serie di elementi che sono dei dettagli della licenza avrà delle ripercussioni sui DRM, che sono quelle cose di cui stiamo parlando ultimamente, che servono a sistemi anticopia o di controllo delle copie. del controllo dei diritti d'autore, ovvero sistemi software che permettono il controllo sul contenuto di quello che noi andiamo a vedere, ascoltare, leggere, eccetera, eccetera. Ne abbiamo fatto svariati esempi in queste settimane. C'è una recente intervista a... ho perso il nome, Hebel Mogler, Moglen, che è il coautore assieme a Stallman, che è, diciamo, l'autore storico della GPL, il coautore di questa nuova versione. L'intervista è stata rilasciata alla Zeus News, in cui dice: non ho molto da aggiungere a quello detto da Stallman. La DRM è un problema di oggi, nella stessa misura in cui i brevetti lo furono 10 anni fa. Questa posizione estremamente aggressiva è una legittima difesa contro un'inaccettabile lesione dei diritti delle persone. Praticamente in questa nuova versione della licenza sono state inserite delle clausole per cui, a differenza delle versioni precedenti, l'utilizzo di un software sotto GPL è autorizzato quando anche il contenuto è di tipo GPL, o comunque è di contenuto libero. Questa detta in maniera più stringata, in realtà non è più dettagliatamente, non sarebbe esattamente in questi termini. Comunque il risultato è che impedirebbe o renderebbe estremamente difficile l'utilizzo di DRM su software open source. In particolare un esempio è quello di Tivo, un produttore di apparecchi di videoregistratori su hard disk, che utilizza come software per la macchina, per il videoregistratore insomma, un software che si basa su Linux, quindi sul sistema operativo. Il problema è che questo produttore fa uso massiccio di DRM, quindi impedisce l'uso di per la riproduzione di materiale di cui non si detengono i diritti d'autore, un po' come fa iTunes. E insomma, una sorta di registratore, videoregistratore, questo attivo, con delle limitazioni su quello che si può registrare, su quello che si può esportare. In particolare non si potranno registrare i film, non si possono registrare i serial televisivi, un sacco di cose. Ok, la GPL3 dovrebbe servire. Uno si chiede anche un po' perché dovrebbe scegliere quel registratore, effettivamente. Il problema è che ormai questo è il trend di tutti i produttori di hardware, di produrre cose che... Vedremo anche in un'altra notizia dopo, che questi DRM stanno per essere inseriti per legge addirittura dal governo americano. Quella dei DRM hardware è, ha ragione Mogler, un grossissimo problema. Nel senso che i produttori di software oggi possono, fin tanto che la protezione, le misure di controllo, i DRM, sono legati comunque a misure di tipo software. Un domani, se i DRM dovessero diventare dei componenti hardware, cioè interni alla macchina, il software non potrebbe più fare nulla. Questo era stato per il progetto Palladium, che poi ha cambiato nome e si sta cercando di riciclare. Ma lo è anche per tutta una serie di apparecchiature hardware che hanno sempre più a che fare con i software, vedi appunto i videoregistratori, i player MP3, eccetera. Se un domani dovesse esserci un pezzo dell'apparecchiatura che impedisce di eseguire un brano musicale o un film di cui non si detengono i diritti d'autore, renderebbe il software totalmente impotente davanti a questo. Appunto, stavamo parlando di questa, appunto, della situazione dei DRM, e appunto in questi giorni c'è una proposta di legge americana, una bozza legislativa appunto, che viene denunciata dalla Electronic Frontier Foundation come una grossa mossa contro l'innovazione tecnologica nel mondo. Fondamentalmente la bozza prevede di inserire appunto i sistemi anticopia in ogni In ogni apparecchiatura elettrica. In apparecchiatura elettronica che possa riprodurre dei contenuti eventualmente protetti da copyright. E di conseguenza questa legge va a addirittura questi no vabbè e questa legge andrebbe, se poi resa effettivamente come probabilmente lo sarà, temiamo, andrà a limitare incredibilmente quello che è la fruizione possibile da parte di una persona di quello che diciamo prende o acquisisce o visualizza. Ad esempio, non potrà tenersi la copia, di come si poteva fare fino ad oggi, di una registrazione di una puntata del serial televisivo che registriamo quando non siamo a casa, perché magari non vogliamo andare in giro al posto di vederlo alla televisione. Queste cose di questo genere verranno tutte vietate dai nuovi sistemi anticopia, che concederanno solo in alcuni casi, dietro particolari concessioni, l'eventuale copia del punto di contenuti multimediali. In teoria, se questa legge fosse stata legge negli anni 70, scrive l'EF, non vi sarebbe mai stato un videoregistratore, perché appunto con il pretesto del possibile uso non corretto dell'apparecchiatura, quindi della potenziale violazione del diritto d'autore, il videoregistratore non avrebbe potuto essere commercializzato. Nel 90 non ci sarebbe stato TiVo, nel 2000 non ci sarebbe stato iPod, perché potenzialmente, o iPod o un qualsiasi altro lettore MP3, perché potenzialmente poteva servire alla riproduzione di materiale di cui non si godeva del copyright. Interessante è che non sarebbero esistiti nemmeno i fogli di carta o la stampa di Gutenberg, che potenzialmente serviva alla replicazione di materiale protetto dai diritti d'autore, solo che fortunatamente queste cose sono state inventate quando ancora non era stato inventato il diritto d'autore. L'accusa della Electronic Frontier Foundation è abbastanza chiara ed è mirata verso fondamentalmente la RIA e la MPA, l'equivalente della CIA americana e l'equivalente dell'associazione di produttori di film americani, e appunto che l'accusa della FF è quella che queste due grosse associazioni spingono e cacciano un sacco di soldi al governo in modo da farsi approvare delle leggi che gli permettano di continuare a usufruire del primato della distribuzione, cioè della possibilità di distribuire al prezzo che decidono loro i vari contenuti copyrightati, quindi di fatto riuscendo a scansare la rivoluzione tecnologica che internet e la condivisione ha portato nel mondo. Allora, interrompiamo un attimo la sequenza di notizie, presentiamo un progetto che si chiama Yamendo, il sito è www.yamendo.com, è un repository musicale, come ne avevamo già presentati anche settimana scorsa in passato. È particolarmente interessante perché innanzitutto ha un design bello, intelligente, raccoglie moltissimi brani. Allora, raccoglie tutta una serie di brani musicali, o meglio ancora di album, che possono essere scaricati attraverso BitTorrent oppure direttamente in MP3 oppure in OGG, formato che noi consigliamo sempre di usare perché è di qualità superiore. Permette una serie di cose, a parte vabbè, ovviamente la pubblicazione e il download dei file. Permette la possibilità di pubblicare dei commenti ai brani che si ascoltano, agli album che si ascoltano, la possibilità per gli artisti di inserire non solo il mero album con la descrizione, ma anche la copertina e cosa altrettanto interessante, le date dei concerti. Per cui insomma è un sistema abbastanza integrato, con anche una buona strutturazione dei generi musicali, un motore di ricerca interno abbastanza veloce che permette di cercare i brani per genere, nazionalità dell'autore, tutta una serie di tag. E è abbastanza facile seguire le istruzioni, purtroppo non è completamente in italiano, solo alcune parti sono in italiano, però si sta sviluppando parecchio. E andiamo a sentire un brano musicale appunto preso da questo repository. Allora, il brano si intitola In the Morning, da mundial.net. Se c'è un piccolo problema software, visto che si è un po', diciamo così, bloccato l'ascolto via web, riascoltiamo la canzone. Trends. It ain't a friend, I'll be dead in the end. I choose life. Torniamo in trasmissione, continuiamo con questa selezione di news che arrivano un po' dappertutto. Tocca a Marco che ci presenta la questione del porno web negli Stati Uniti. Esatto, allora tocca sempre a lui questo argomento, non credo perché siete malfidati. No, allora, cosa è successo? L'amministrazione Bush ha deciso che è giunto il momento di, probabilmente visto da, di notte gli è apparso Gesù o qualcuno del genere, gli ha detto vai e combatti contro la pornografia, e Bush allora si è lanciato e ha deciso che la pornografia è cattiva. Allora la cosa è ovviamente cattiva, è ancora più cattiva su internet. Sì, e quindi non è una novità che la pornografia sia cattiva per l'amministrazione americana, nel senso non vorrei fare i conti di quanti soldi prendono con dei film porno in America, però vabbè. Sì, però il moralismo, sai come funziona. Vabbè, ok. Si dice. Esatto. E appunto la crociata di Bush è partita cercando di capire come funziona la pornografia in rete, e per capirlo ha deciso che era giusto andare a chiedere ai vari motori di ricerca tipo Google, Yahoo e Microsoft, chiedendo a questi tutti i dati del tutto il traffico che gli utenti internet, tutti gli utenti internet fanno. Una richiesta un attimino sovradimensionata e che mette a grave rischio tutto quanto riguarda la privacy di una persona. Qui non si sta parlando di avere soltanto i dati relativi ai siti porno, si sta chiedendo di avere tutti i dati che tutta la gente, cioè, tutte le query che la gente fa su internet. È un po' come se sostanzialmente andare a vedere quali sono le parole di ricerca utilizzate nei maggiori sistemi di ricerca del mondo. Esatto, sì. È un po' come se lo Stato italiano chiedesse a Telecom di avere una statistica di tutti i numeri chiamati da chi. Soltanto per scopi di combattere la pornografia telefonica. Che è l'equivalente di sapere tutti i vostri libri che avete chiesto in una biblioteca, tutte le cose di questo tipo. Insomma. Esatto, una cosa decisamente fuori dalla grazia di Dio come mole di informazione, di violazione della privacy. E Microsoft e l'altro motore di ricerca Yahoo cosa hanno deciso di fare? Hanno dato tutti i dati che questi richiedevano senza porre la minima il minimo limite. Loro dichiarano soddisfatti che hanno preservato la privacy dei loro utenti, e infatti hanno fornito le query di ricerca prive di informazioni personali, e qui ci chiediamo come si possa, di fronte a una mole così quasi infinita di dati, ripulire di tutte le informazioni personali che possono essere presenti in essa. E niente, insomma, Microsoft e Yahoo non si sono posti problemi nel consegnare al Dipartimento di Giustizia americano tutta questa mole di dati. Google è la prima e l'unica fino adesso ad alzare la testa, e di conseguenza l'alzata di testa di Google che ha denunciato la richiesta sul web, cioè la richiesta è stata, questa richiesta del Dipartimento di Giustizia è stata resa pubblica, e a quel punto le varie associazioni per i diritti per la difesa della privacy, in particolare l'American Civil Liberties Union, si sono appunto uniti a Google dicendo che questo tipo di richiesta non aveva senso, era una gravissima violazione del diritto della privacy delle singole persone. Un motore di ricerca come Google, dichiarano, dispone di un database confinato e certamente qualcosa di allettante per un governo come questo, quello Bush, che dal controllo sociale ha fatto il suo credo. Oggi vogliono le query, domani chissà cosa vorranno. Questa è la dichiarazione di Chris Hofnagel, consigliere della Electronic Privacy Information Center. Ancora? O non si capisce quando fai questa In compenso, dice, un gran numero di persone continua a non digerire la linea condotta del governo americano, intende. Certamente non rappresentiamo l'industria del porno, ma i siti con un contenuto sociale. Ciò non toglie che questa sia una prevaricazione, dice Emily Whitfield della ACLU. E quest'altra notizia invece, se quella di prima vi sembrava una prevaricazione della privacy, quest'altra notizia che viene dalla Gran Bretagna ha veramente dello scandaloso e del clamoroso. Allora, è una notizia che di un reportage della BBC che denuncia l'accumulazione di uno schedario, comunque la raccolta in uno schedario del profilo genetico di circa 24.000 minorenni incensurati in Gran Bretagna. Cioè persone che non hanno fatto assolutamente niente, a cui è stato tolto il DNA, campioni di DNA ovviamente, durante normali controlli di polizia. Il DNA dovrebbe andare distrutto secondo la legge, invece no, l'hanno tenuto anche dopo aver controllato che non avessero dei precedenti penali. In particolarmente grave perché riguarda appunto dei minori, e i frammenti sono stati comunque ottenuti parzialmente in maniera volontaria, parzialmente in maniera obbligatoria. Anzi, interessante sottolineare come in Gran Bretagna il 7% della popolazione britannica sia sottoposto volontariamente o obbligatoriamente ad un prelievo di materiale genetico, a fronte di un 1,13% della media europea e lo 0,5% negli Stati Uniti. Entro il 2008 l'archivio conterà oltre 4 milioni di individui schedati, aggiunge Burnham della BBC. Attualmente vi sono registrati poco più di 3 milioni di persone, ben 15.000 tra loro sono volontari, mentre 140.000 sono incensurati. Titola il Guardian: viviamo in uno stato di polizia, si chiede appunto il titolo del Guardian, non ancora ma quasi, in sottotitolo. Visto che siamo andati un po' lunghi, mi sa che dovremmo saltare la recensione dei client BitTorrent, che ve la proponiamo per la prossima settimana. Intanto noi adesso andiamo a presentare invece due progetti, che sono un progetto perché l'altro l'abbia fatto prima. Scusami Alessandro, hai ragione. Un altro progetto di editoria online, in un certo senso, anche se ovviamente i termini di editoria cambiano notevolmente quando si tratta di progetti legati alla grande rete. Allora, prendendo spunto da un articolo più che altro da un evento organizzato a Roma per il 27 gennaio, ovvero la presentazione del libro Processo alle Bestie. L'evento si chiama appunto Processo alle Bestie e le nuove tecnologie cyber editoriale anti-copyright. È stato un po' insomma altisonante. Comunque il progetto è interessante e fa riferimento al sito www.nuovaetica.org. Si tratta di un sito che propone di distribuire gratuitamente romanzi, saggi, poesie e materiale informativo. E recita il manifesto di questo progetto: La nostra idea è quella di diffondere in questo modo una diversa coscienza del nostro rapporto con gli altri animali e con l'ambiente in cui viviamo, un'idea di liberazione degli animali e dell'ambiente, non di protezione. E poi vabbè, prosegue, diciamo che non è un progetto di editoria generalista, ha un obiettivo ben chiaro, lo si capisce anche dal catalogo di testi che propone. E comunque sono presenti sul sito con tutti scaricabili una serie di libri, appunto saggi, poesie, di cui l'ultimo pubblicato è appunto questo Processo alle bestie, che è una parodia in chiave animale, insomma, del processo e del comunque cioè viene inscenato praticamente questo processo grottesco a degli animali. E è una nuova commedia dell'arte e tutto è licenziato sotto, anzi molto spesso senza licenza, quindi proprio gratuitamente in completo copyleft, a volte invece semplicemente sotto Creative Commons oppure sotto utilizzo libero, ma con divieto di redistribuzione. Comunque vabbè, il processo, il progetto è interessante. Se poi ne vorrà parlare meglio Vera in trasmissione, non lo so, io le ho mandato il link. Leggerà lei meglio se gli interessa qualcosa da proporre. Con questo si chiude la trasmissione Cialtroni nello spazio. Appuntamento per mercoledì prossimo a partire dalle 12.35-12.40 circa, sempre sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ma per chi vuole riascoltarci, perché proprio non ne può fare a meno, sul nostro sito web radio.circolab.net oppure spazio.circolab.net può trovare tutte le nostre puntate e soprattutto tutti i link che vediamo nelle varie trasmissioni, sono lì riportati in bella mostra e comodi da essere visitati. Giusto per far capire che non è farina del nostro sacco. Esatto. Beh, ma del resto facciamo giornalismo, quindi non inventiamo nulla. Per forza. È che siamo a favore della condivisione. Sì, dello scrocco più che altro.